O voi due, gettate nell'inferno ogni miscredente testardo. Manna'in lil-khayri mu'tadim murib. Nemico del bene, trasgressore e scettico. Alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhara fa'alqiyahu fil'azabi shadid. Che pose a fianco di Allah un'altra divinità. Gettatelo nell'orrendo castigo. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. Dirà il suo compagno: Signore, non sono stato io ad incitarlo alla ribellione, già era profondamente traviato. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. Dirà Allah: Non polemizzate al mio cospetto, già vi resi nota la minaccia. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. Di fronte a me la sentenza non cambia, né sono ingiusto verso i miei servi. يوم نقول لجهنم هل امتلأ وتقول هل من مزيد. Il giorno in cui diremo all'inferno: Sei pieno? Esso risponderà: C'è altro da aggiungere? وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. Il giardino sarà avvicinato ai timorati. Ecco quel che vi è stato promesso, a voi e a chi è pentito, a chi si preserva dal peccato. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. A chi teme il compassionevole nell'invisibile e ritorna a lui con cuore contrito. ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود. Entratevi in pace. Questo è il giorno della perpetuità. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Colà avranno tutto quel che vorranno, e presso di noi c'è ancora di più. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ. هَلْ مِنْ مَحِيصٍ. Quante generazioni sterminammo prima di loro, che pure erano più potenti di loro, e che inutilmente cercarono, percorrendo le contrade, di sfuggire al castigo. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. In ciò vi ho un monito per chi ha un cuore, per chi presta attenzione e testimonia.